485. Totani in gratella. I totani, l'oligo, appartengono all'ordine dei cefalopodi e sono conosciuti nel litorale adriatico col nome di calamaretti. Siccome quel mare li produce piccoli ma polputi e saporiti, cucinati fritti sono giudicati dai buongustai un piatto eccellente. E il Mediterraneo, messe a confronto le stesse specie, da pesce più grosso, ed ho visto dei totani dall'apparente peso di grammi 200 a 300, ma non sono sì buoni come quelli dell'Adriatico. Questi, anche tagliati a pezzi, riuscirebbero duri in frittura. Quindi meglio è cuocerli in gratella ripieni, oppure, se sono grossissimi, in umido. Questo pesce racchiude nell'interno una lamina allungata flessibile, la penna, che altro non è se non un rudimento di conchiglia che va tolto prima di riempirlo. Tagliate al totano i tentacoli, che sono le sue braccia, lasciandogli il sacco e la testa, e tritateli con la lunetta insieme con prezzemolo e pochissimo aglio. Mescolate questo battutino con molto pan grattato, conditelo con olio, pepe e sale e servitevi di tal composto per riempire il sacco del pesce. Per chiudere la bocca del detto sacco, infilzatela con uno stecchino che poi leverete. Conditelo con olio, pepe e sale e cuocetelo, come si è detto, in gratella. Se vi trovate a Napoli, non mancate di fare una visita all'acquario nei giardini della Villa Nazionale, ove fra le tante meraviglie zoologiche osserverete con piacere questo cefalopodo di forme snelle ed eleganti nuotare e guizzare con moltissima grazia, ed ammirerete pur anche la sveltezza e la destrezza che hanno le sogliole di scomparire a un tratto fra la sabbia di cui si ricoprono per occultarsi forse al nemico che le insegue. Tornando ai calamaretti, che è un pesce alquanto indigesto, ma ottimo in tutte le stagioni dell'anno, dopo aver loro levata la penna e strizzati gli occhi, lavateli, asciugateli, infarinateli e friggeteli nell'olio, ma avvertite, non vi passino di cottura, la qualcosa è facile se non si sta molto attenti. Streminziscono allora e si rendono ancora più indigesti. Conditeli caldi con sale e pepe.